bisogna ricordare che quando vengono in Niger, quelli che sfuggono dalla Libia vengono nei camion, e poi per questo noi, l'OIM, dall'anno scorso avevamo un centro di transito che era appunto finanziato dalla cooperazione italiana, quindi che era in Dirkou. Dirkou si trova nel nord del Niger, verso la frontiera sud, è un punto di passaggio obbligatorio dai migranti che vogliono recarsi in Libia. Arrivano in Dirkou e lì, quando arrivano in Dirkou, diciamo marzo, febbraio, marzo, aprile, riceviamo almeno 2.000 persone per giorno.